Oppure Renato Brunetta, che da una parte appunto sul giornale ha messo la trasparenza, ma sul Fatto all'età di 60 anni è anche in pensione come docente universitario dopo 38 anni di insegnamento a circa 3.000 euro netti al mese. Insomma, quelli che sono, hanno un incarico pubblico, ma hanno anche, ma anche Oscar Luigi Scalfaro, 4.774 euro al mese di pensione, oltre a quello che ha gli emolumenti, immagino, al Senato. Antonio Di Pietro, 1956 euro al mese. Insomma, trovate tutto sul Fatto. Che dobbiamo dire? C'è poco spazio, c'è molto sui compensi nei titoli di coda della RAI, c'è il gran casino della RAI. E c'è spazio per le ultime due segnalazioni, che sono gli mega yacht in fuga dall'Italia dopo la vicenda Briatore. Attenzione, l'allarme sul Financial Times. L'Italia è considerata un paese a rischio per gli yacht. Dopo il sequestro di Briatore, sarebbe questo passaparola, alcuni consulenti legali stanno avvertendo i clienti con i mega yacht che nel 90% dei casi battono bandiera delle Cayman di stare attenti prima di avventurarsi nelle acque italiane. Attenzione, perché qui in Italia Briatore Docet, sequestro di del Force Blue di Briatore Docet, i mega yacht pare non siano graditi. E allora ci fermiamo qui, voi votate il sondaggio sui Vucum Pra in spiaggia, le multe salate per chi compra merce contraffatta nelle spiagge italiane. Siete d'accordo su radio24.it, bianco o nero? Eccoci alle 8:17 minuti, siamo pronti con la nostra Deborah Rosciani. L'efficienza energetica e ambientale in azione. Cofeli, gruppo GDF Suez. Vi presenta Soldi e dintorni. Eccoci, tanti auguri. Cosa ride Peter? Oggi è il compleanno del nostro Peter. Di questi personaggini trasparenti che ci aiutano tanto a lavorare, il a fare bene il nostro lavoro. Con 4G. Con 4G. Quanti ne compi? Ma Peter? Pochi, guarda, non solleviamo questa cosa di quanti, perché poi dopo. Ma che 20 di sì, per gamba. No, un po' meno, dai, ce ne ha molti meno di me, Peter. Carissimo. Anche di me. Hai dormito qua stanotte? No, no. Hai fatto tutto un giro, tutto un turno. Vabbè, come va con la zanzara? Bene, bene. Bene, ok. Ti diverti la sera? Sì. Devo venire a farti compagnia? Anche no? Quando vuoi, sai. Parliamo di casa, ti lascio andare, vai un po' ad approfondire il tema che devi fare dopo. Che è un tema che mi piace tanto, peraltro, l'acquisto delle borse lungo le spiagge. Perché compri le borse? Non le compro, però le guardo con attenzione. Tutte così, tutte così. Le guardo, ma poi non le mai comprata una collanina. Secondo te, se l'avessi mai comprata, posso dirlo così? Appunto. dai. Allora, parliamo invece di casa, soldi e dintorni, perché parliamo di agevolazioni per l'acquisto della prima casa. Rifacciamo un po' un punto della situazione, ma soprattutto ci sono delle novità che sono state rese note nei giorni scorsi dall'Agenzia delle Entrate e riguardano un po' quei contribuenti che magari in questo momento hanno già una casa di proprietà, hanno usufruito in passato delle agevolazioni legate all'acquisto della prima casa, ma in un secondo momento vogliono allargare questa abitazione con l'acquisto, per esempio, di una soffitta, di un box, di una come dire, struttura che in gergo tecnico si chiama una pertinenza. E allora ci sono delle novità proprio in questo ambito per aiutarci ad orientarci in questo settore, in queste novità. Stamattina abbiamo disturbato il notaio Giovanni Rizzi, membro della Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato, che saluto. Notaio Rizzi, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno Deborah, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Allora, prima di entrare nel merito delle novità di cui parliamo questa mattina, direi di rifare un po' un punto della situazione, magari a qualche contribuente che sta acquistando casa adesso ed è la sua prima casa, magari non sa bene, lo conoscerà tutto questo ambito di agevolazioni il giorno in cui firmerà il rogito davanti al notaio, però magari glielo facciamo conoscere, notaio Rizzi, in via preventiva. Qual è la rosa delle agevolazioni per chi acquista la sua prima abitazione? Intanto diciamo in cosa consiste l'agevolazione. La tassazione ordinaria per un fabbricato è pari complessivamente al 10% sul valore, che sono è data da un 7% di imposta di registro, 2% imposta di trascrizione, 1% imposta catastale. Questo nei trasferimenti tra privati, quindi non soggetti ad IVA. Agevolazione prima casa invece si riduce a un 3% di imposta di registro, imposta di trascrizione catastale fisse, quindi 168 per imposta. Se la l'impiegato è soggetto a IVA, invece l'aliquota IVA scende al 4%. Mm-hmm. Questo quindi l'agevolazione. Ci devono sussistere due requisiti. Uno chiamiamo oggettivo, il fabbricato deve essere un fabbricato non di lusso. Ecco, ai fini di questa qualificazione non si va a vedere, attenzione, la categoria catastale, mm-hmm. come era nelle prime leggi che escludevano le categorie 1 a 8, eccetera, come è per l'ICI ad esempio, ma bisogna andarlo a verificare puntualmente sulla base di determinati parametri che sono stabiliti in un decreto ministeriale, direi abbastanza datato, perché risale al 1969. È un decreto che era a mia età Iorizzi, quindi lo posso, è datato come me. E quindi questa è una cosa, insomma, le caratteristiche di lusso dell'abitazione. L'abitazione, ecco, per avere questa agevolazione non deve avere le caratteristiche di lusso. Poi, e attenzione, perché c'è un requisito che determina sempre la caratteristica di lusso del fabbricato, che è la superficie, cioè se io ho un'abitazione che supera i 240 metri quadrati potrebbe anche cadere a pezzi ed è sempre considerata comunque di lusso e quindi non avrò le agevolazioni prima casa, quindi bisogna fare molta attenzione. C'è poi un requisito molto importante che è quello relativo al luogo dove deve essere ubicata l'abitazione, e ovviamente il contribuente, il proprietario. Esatto, c'è il requisito della residenza, quindi il soggetto deve comprare l'immobile nel comune dove ha la residenza o dove si impegna a trasferire la propria residenza entro i 18 mesi successivi alla stipula dell'atto, mm-hmm. quindi c'è anche questa possibilità. Se l'acquirente è trasferito all'estero, notaio Rizzi, per allora, lavoro? Il cittadino trasferito, se è residente all'estero, ha il diritto alle agevolazioni e può comprare l'abitazione ovunque nel territorio. Se invece un cittadino che risiede temporaneamente all'estero per ragioni di lavoro, invece nel comune dove ha sede l'impresa dalla quale dipende, può avere diritto all'agevolazione in prima casa. Poi altre agevolazioni particolari sono previste per esempio gli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia. Gli altri due requisiti soggettivi fondamentali che il soggetto, uno, non deve possedere già un'altra casa nel comune dove va a comprare l'immobile. Secondo, non deve aver già usufruito prima dell'agevolazione prima casa per l'acquisto di altre abitazioni in qualsiasi luogo del territorio nazionale. Ecco, notaio, prima di entrare nel merito delle notizie che arrivano dall'Agenzia delle Entrate, mi chiedo, io sono proprietaria di un'abitazione, ho usufruito delle agevolazioni appunto per l'acquisto della mia prima casa, sono proprietaria al 100% di questa abitazione, per cui ho tutti i diritti per avere questa agevolazione, ma diciamo che voglio venderla e perdo queste agevolazioni appunto di cui ho usufruito, ma mi pare di ricordare che ci sia un tempo entro il quale appunto devo poi fare un riacquisto contestuale per mantenere queste agevolazioni, sì. Per 5 anni non si può vendere se si è comprato una casa con l'agevolazione in prima casa, altrimenti si perdono l'agevolazione, a meno che non si riacquisti un'altra casa da destinare a propria abitazione entro un anno dalla vendita. Ma questo, tra l'altro, quindi... ecco, no, ma vorrei capire, si perdono in che senso? Perché se io ho già non versato, per esempio, l'imposta di registro, ho già versato l'imposta di registro nell'ammontare ridotto, in che termini li perderei? Se non faccio l'ufficio del registro fa il recupero dell'imposta, quindi l'esempio che avevamo fatto prima, 3% contro il 10% totale, quel 7% di differenza lo recupero con una sopratassa anche del 30% più interessi. Benissimo. Quindi è un conto salato. Cosa ha detto l'Agenzia delle Entrate nei giorni scorsi e i notaio Rizzi? Se voglio comprare un box o una cantina, cosa succede? Allora, è intervenuto su vari punti. Uno, ad esempio, sulla questione delle pertinenze, perché la norma estende le agevolazioni prima casa anche all'acquisto delle pertinenze, quindi non solo l'abitazione. Peraltro, limitatamente, tra l'altro, a una sola pertinenza accatastata come C6, cioè garage, o C2, deposito. Cantina deposito che è il C2, e questo lo consente anche se la pertinenza viene acquistata con atto separato, cioè non necessariamente deve essere acquistato contestualmente all'abitazione. Io posso comprare il garage un secondo momento e godo delle agevolazioni prima casa. Peraltro, in una circolare del 2001 l'Agenzia delle Entrate aveva stabilito come condizione per usufruire di questa agevolazione all'acquisto della pertinenza il fatto che il bene principale, del quale adesso il nuovo acquisto va a costituire pertinenza, fosse stato acquistato necessariamente con le agevolazioni prima casa. Cosa dice allora la circolare ultima, la 31/E del 7 giugno 2010? Ce lo deve dire in 30 secondi, notaio, mi rendo conto che è impossibile, ma ce la dobbiamo fare. Ecco, ha detto anche si possono usufruire delle agevolazioni prima casa anche se il bene principale non è stato acquistato con agevolazioni prima casa, se l'acquisto è anteriore al 24 aprile dell'82, cioè alla data in cui è stata istituita per la prima volta l'agevolazione prima casa. E ancora, se il bene principale era stato acquistato al grezzo senza agevolazioni prima casa prima del 2001, perché sino a questa data l'indirizzo dell'amministrazione finanziaria era che non spettavano le agevolazioni per i fabbricati al grezzo. Poi con una circolare del 1 marzo 2001 invece l'agevolazione è stata estesa anche agli edifici e abitazioni. Benissimo. Sembra sempre tutto molto complicato, in realtà lo è molto meno di quanto non sembri per l'appunto, però per chi volesse saperne di più ricordo l'estremo di questa pronuncia dell'Agenzia delle Entrate, di questa circolare è la 31/E del 7 giugno 2010, quindi di 3 giorni fa. Notaio Rizzi, grazie per la sua chiarezza, buona giornata. Grazie a lei, arrivederci. E noi oggi a Salvadanaio ricontinuiamo con la casa e parleremo dell'ICI, dell'acconto ICI. 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora oggi nel nostro sondaggio parliamo di lotta alla contraffazione, soprattutto i Vucumpra e l'invasione delle spiagge italiane. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Oh, ci vengono già un po' di brividi da sole, no? Allora, per restare insieme a te e come l'anno scorso. È possibile acquistare una finta pochette Vuitton per 7 euro e essere beccati e prendere 1000 euro di multa? È successo a Jesola, una turista austriaca che ha detto: che leggi severe che avete in Italia, pagherò. Francesco Calzavara, buongiorno. Buongiorno. È il sindaco di Jesolo, eletto in una lista civica PDL Lega Nord. Lei ha detto linea dura, basta. Ma, è una legge che applichiamo già da 3 anni a Jesolo, questa della lotta alla vendita di merce contraffatta, oltre naturalmente a tutte le iniziative che mettiamo in campo per cercare di arginare un fenomeno del commercio ambulante sulla spiaggia che ha ormai livelli insostenibili. Le sembra normale 7 euro? Assolutamente sì. Pagare 7 euro? La legge prevede un massimo fino a 10.000 euro, noi applichiamo il doppio che è il minimo. Cioè le è andata bene a questa turista? No, crediamo. Il cellulare a Jesolo. I Vucumpra, insomma, che stanno sulle nostre spiagge e che ci propongono queste merci, sì, spesso sono contraffatte, sono... Sindaco, eccoci qua. Sì. Abbiamo ripristinato la linea. Ecco. Allora, dice, lei è andata bene a questo turista, poteva andare anche peggio, no? La legge, appunto, noi applichiamo il doppio del minimo, che è veramente quello che la legge prevede, e sono 500 euro, quindi il doppio, sono 1000. Credo che sia una forma di deterrenza che spero indurrà più di qualcuno a non affrontare acquisti incauti come ha fatto questa signora. Però lei deterrenza. Senta, ma sa cos'è? Molti dicono, sì, c'è il problema della contraffazione, questo alimenta anche magari delle economie illegali. Però perché ci deve andare sempre di mezzo l'ultimo della fila? Voglio dire, nel senso, stroncare il fenomeno delle economie illegali è importante. Si vada a beccare quello, a stroncare quel fenomeno della contraffazione che crea problemi anche alle case, quelle che hanno i marchi veri, insomma, da tutelare. Però perché andare a beccare l'ultimo della fila? Questo è verissimo. È altrettanto vero che i turisti e i commercianti di Jesolo chiedono al sindaco di intervenire per quello che è di sua competenza. La sua competenza naturalmente si ferma alla spiaggia, si ferma a 15 chilometri da Arenile, a 1 milione di metri quadri da tentare di controllare, poi altri devono fare il loro lavoro e naturalmente è la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i Carabinieri che devono fare. Noi facciamo il lavoro che possiamo fare con i nostri vigili urbani, insomma, la Polizia. Noi diciamo che facciamo ben oltre quello che è la nostra competenza, perché questa genera una serie di interventi sulla spiaggia che costano centinaia di migliaia di euro alla nostra amministrazione. ma che riteniamo di dover fare. Lei ce l'ha anche adesso, vuole dire linea dura anche ai venditori di fiori, quelli che vanno nei ristoranti. Ma credo che questo sia un altro fenomeno che sta succedendo da noi, che nei tanti locali serali dove la gente va a mangiare non si riesce più a stare tranquilli, perché c'è un via vai continuo di questi venditori di rose, in particolar modo di provenienza dal Bangladesh, che non lasciano più tranquillo il turista, chi vuole andare a passare una serata. Non si riesce più a stare tranquilli. La sta ascoltando, voglio salutarlo, Piero Sansonetti, direttore degli altri. Sansonetti, buongiorno. Direttore, buongiorno. Lei buongiorno, è mai stato, è stato importunato? Si sente tranquillo se va a Roma o se va, non so, dove va al mare, per questi venditori che vengono a disturbare? Dice il sindaco, non se ne può più, insomma, anche di questi venditori di rose nei locali. Ma io sono stato anche a Jesolo recentemente, un convegno organizzato dalla credo proprio dall'amministrazione comunale sul tema del dell'abusivismo, una discussione che c'è stata. Ma no, io non riesco a capire, l'ho detto lì e lo ripeto qui. Ci sono due cose che non capisco. Ma quella, diciamo, secondaria è che a me mi fa un po' ridere questo fatto che mi sento dire da tanti anni, io sono di sinistra, ho tutti questi difetti, diciamo, e da tanti anni mi sento dire no, ma la libertà del mercato, addirittura ho visto Berlusconi vuole abolire l'articolo 42 della Costituzione perché limita la libertà del mercato, però poi le grandi 41, marche, direttore, 41, la Costituzione, no, sennò poi 42. La Costituzione. Ma forse pure il 42, ha detto comincia il 41, poi magari vuole abolire anche il 42. Non si sa. Fare un po' ridere queste grandi marche che poi invece dopo gridano aiuto, venite a difenderci se non ci abbiamo, ma questo è l'aspetto meno importante. La cosa francamente che a me non mi convince, l'ho già detto ma lo vorrei ripetere anche con affetto al sindaco, è che capisco qual è il problema, io capisco qual è il problema, un'amministrazione comunale che si pone, ma non possiamo soprattutto in questo periodo di grande crisi prendercela con quelli lì, perché sono davvero deboli, perché non hanno nessun'altra strada, perché davvero esiste una parte della nostra società che o va al delitto o va a delle forme di arrangiarsi, diciamo così, che sono queste, che è la cosa meno. Ora io so fra l'altro benissimo, perché l'amministrazione di Jesolo è un'amministrazione di centrodestra, so benissimo che oltretutto questa linea non è stata neanche iniziata dal centrodestra, è stata iniziata due o tre anni fa, figuratevi, dal sindaco di Firenze, che è uno che viene dal Partito Comunista, da Domenici, no? Poi è stata fatta dal sindaco di Roma, che allora era Veltroni, poi, quindi è un centrosinistra e centrodestra, devo dire, su questo, ma badate, è un errore, oltre ad essere una cosa che io trovo, diciamo così, dal punto di vista proprio dei sentimenti, come si fa a prendersela con quelli ragazzi? C'è poi la crisi, sì. Ma è anche un errore, perché spinge alla criminalità, badate, se noi spinge alla criminalità. Cioè dice, perché così almeno si guadagnano quegli euro che permettono di vivere, altrimenti come fanno? Sindaco, questo se l'è posto il problema, c'è la crisi, molti dicono magari sono aumentati anche perché perdono il posto di lavoro, e cosa fanno? Entrano in questo certo circolo di sicuramente economia illegale, però questo è un problema che lei si pone, sindaco, oppure dice non mi interessa, la legge è legge. Non posso pormi un problema come questo legato all'occupazione, che naturalmente non riguarda la nostra località, perché chi arriva a vendere sulla spiaggia arriva da fuori e quindi probabilmente da nord-est, che risente un po' delle difficoltà economiche. È altrettanto vero che a fronte di mail continue che ricevo di turisti che vengono disturbati, l'ultima è dell'altro ieri, che mi dice gli accontati erano 200 in un pomeriggio, che con varie mercanzie hanno importunato un turista che voleva passare qualche ora di tranquillità sulla nostra spiaggia. È chiaro che qualcosa bisogna pur fare. Tra l'altro, guardi, ci scrive. Guardi, Luca da Venezia. No, Luca da Venezia ci scrive in sms al 349-238-6666. È facile parlare senza essere stati a Jesolo, caro conduttore. Io ci vado, è impossibile stare in spiaggia. Ci sono decine che ti assaltano. Io non lo so, è vero, non frequento le spiagge di Jesolo. Devo dire che ti assaltano, il direttore, quest'anno c'è stato un un ulteriore aumento che molto probabilmente risente della crisi, e di fronte a questo bisogna cercare di fare qualcosa. Noi abbiamo aumentato di più di 15 vigili di poliziotti locali destinati esclusivamente al controllo sulla spiaggia. Ho capito, ma non è provinciale, però su 15 chilometri con 110 accessi. No, questo però, mi scusi, sindaco, lei dice bisogna fare qualcosa, c'è la crisi. Non è il qualcosa che le suggerisce Sansonetti. Lei può essere non d'accordo, ma voglio dire, cioè, se lei dice quello che abbiamo fatto è aumentare i vigili, Sansonetti invece dice c'è la crisi, magari chiudiamo un occhio, ecco questo. Vabbè, ma allora diciamo che le spiagge le trasformiamo in un souk, dove si può vendere di tutto, e va bene così. Ecco. No, va bene, chiaramente la sua posizione... Perché il direttore Sansonetti, che ha conosciuto la nostra città, dovrebbe rendersi conto che dietro la spiaggia c'è un tessuto commerciale che paga le tasse, che paga l'ICI, che è nella piena legalità e che giustamente si arrabbia, certo, vede persone che non pagano le tasse. Reale da parte di chi va nella spiaggia e vende. Allora, no, un suc per carità, no. Intanto voglio salutare, ci sta ascoltando anche il comandante della Polizia Municipale di Rimini, Vasco Talenti. Comandante, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, a Rimini avete fatto qualcosa di simile, ma ho letto anche di più. C'è tra le varie prerogative quella di pedinare i venditori abusivi, e quando scoprite, per esempio, come è successo a un senegalese di recente che stava per tirar fuori dalla macchina la mercanzia per andare in spiaggia, che avete fatto? L'avete fermato, sequestrata la merce, sequestrata la macchina, addirittura confisca della macchina. È così? Sì, questo lo facciamo sulla base di una legge entrata in vigore nel 2009, la numero 99, che consente i sequestri ai fini della confisca di tutte le cose che servono e sono destinate a commettere questo tipo di reati, segnatamente la contraffazione. Addirittura anche l'appartamento, cioè se trovate qualcuno a Rimini affitta a uno che è un Vucumpra o vari Vucumpra, sì, che tengono lì la merce, potete sequestrare l'appartamento. Chiaro, deve configurarsi come di fatto un deposito vero e proprio, quindi ci deve essere un rapporto di strumentalità fra quell'appartamento, quel deposito e l'attività di vendita contraffattiva. Accidenti. Ci andate però giù. La legge consente questo, abbiamo letto in questo senso e siamo confortati. Cioè, Duretti, no? Nel senso, voglio dire, perché lei non deve fare politica. Guarda, siamo pieno centrosinistra, no? Rimini, no? La Riviera Romagnola. Sì, ma infatti io le sto dando un nato normativo. La legge del 99, certo, appunto, ha ridisciplinato tutte le fattispecie che riguardano i reati di contraffazione, introducendo nuovi articoli, appunto, nel corpo del codice penale, che consentono anche questo. Evidentemente la razza della norma e della legge è evidentemente quella di costituire un valido interlocutorio e contratto nei confronti di questo fenomeno. Senta, che sta assumendo su tutte le spiagge. Ecco, io non mi meraviglio di quello che dice il sindaco di Lesolo, che peraltro saluto. Anche noi a Rimini e in altre realtà contigue, crisi economica ovviamente stanno aumentando assolutamente, sì, di numeri, quindi è un fenomeno che va gestito, governato, contrastato. No, le chiedo questo, poi devo andare al traffico, mi dica solo la reazione di questo senegalese che si è visto confiscare la macchina, la merce magari. Ma sicuramente non piacevole, però tenga conto che bene o male la legge, chi fa questi tipi di reati prevede anche che ci possono essere provvedimenti che riguardano sospensione, direttivo, revoca del permesso di soggiorno, della carta di soggiorno, quindi gli strumenti ci sono e la sensibilità su questo. Ma sanno che corrono dei rischi. Allora, devo andare al traffico. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? E allora sono giuste queste multe? Vi chiedeamo, a chi compra merce contraffatta deve comprare. Vi state dividendo, il 52% dice di sì sul sito radio24.it. Allora, Piero Sansonetti, uomo di sinistra, in terra di sinistra a Rimini si fa così, la legge lo consente, ci sta dicendo il comandante della Polizia Municipale, si sequestrano le macchine e gli appartamenti si è usati come deposito. Sì, ma vede, io ho una reazione diversa fra Jesolo e Rimini, perché a Jesolo è stata eletta una giunta di centrodestra. E io trovo che il problema naturalmente è lo stesso e resto dalla parte dei poveri e dei vucumprate. Non mi si può dire, certo che sono tutti problemi che esistono, se c'è il problema del fastidio, se c'è il problema dei marchi non protetti, eccetera, però io trovo che assolutamente al primo posto va l'altro problema, che è il problema della povertà e dell'impossibilità. Ora però la giunta di centrodestra è stata eletta su un programma che è il programma che sta attuando, credo, e che ha questa linea che io non condivido e in tutti i modi, che in Italia il centrosinistra faccia la stessa cosa, cioè che in Italia il centrosinistra, di fronte al problema drammatico della povertà e dell'aumento della povertà, dica però è fastidiosa e quindi dobbiamo eliminare i poveri e quindi dobbiamo, questo un pochino francamente mi indigna, se non fa il centrosinistra francamente mi indigna, perché mi chiedo in che paese viviamo, se viviamo in un paese in cui nemmeno la sinistra difende i poveri, allora viene solo da piangere. Guardi che a Sesto San Giovanni il sindaco sta mettendo il muro, la cancellata anti-rom, anche lì c'è polemica, insomma ormai questa cosa sinistra la mia ferita, no, ho capito, ma lo faccio apposta, le voglio far passare una brutta giornata. Non è possibile, hai capito? Bisogna che sì, ma questo dibattito, che di fronte al problema della povertà, del disagio, della difficoltà, dell'immigrazione, del fatto che e perché vengono qui questi, perché nel loro paese muoiono eccetera eccetera, la destra, diciamo, mi oppongo con tutte le mie forze, ma so che è quella, ma la sinistra, non si sa neanche una sinistra che si pone il problema di difendere, ma ancora sto dibattito se la legalità è di sinistra o di destra, voglio dire, la legalità è la legalità, no? Stupidaggine, non è che si può dire la legge, c'è la legge e quindi si applica e basta. La legge spesso è una stupidaggine, va cambiata, per questo esiste la politica. La politica esiste perché ci sono delle forze che si battono per cambiare le leggi, se no non si fa la politica, si fa un. Allora voglio dire, non è possibile che in un paese come il nostro, gli unici, davvero, io poi sono anticlericale, quindi figuratevi, ma gli unici che si schierano a difesa dei poveri. La Caritas, viva la Caritas. La Chiesa Cattolica e la Caritas. Sansonetti si sta aggrappando alla Caritas. Non l'avrebbe mai pensato lei nella sua vita, diciamo la verità. No, sentiamo qualche ascoltatore. Andrea D'Ancona, buongiorno. Allora, buongiorno. Dica. A tutti. Guarda, io volevo affrontare il problema da un altro punto di vista e volevo farvi questa domanda. Ma allora è un falso l'oggetto che io compro dall'extracomunitario in spiaggia o l'oggetto che io vado a comprare al negozio ufficiale di questi blasonati marchi, che io pago lo stesso prezzo di 20 anni fa, anzi forse di più, ma 20 anni fa mi era prodotto in Francia o in Svizzera e aveva una qualità, dico, quasi eccelsa. Adesso mi viene prodotto in Cina e io lo pago esattamente il prezzo di 20 anni fa. Ma non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, mi scusi. C'è tutto il tema della delocalizzazione, si può discutere di andare a produrre dove il costo del lavoro è più basso, però voglio dire, quel prodotto segue un percorso legale di pagamento, di dazi, di importazione, di tasse. Noi consumatori dobbiamo sempre stare quindi zitti. No, ma io non dico, io sto rispondendo alla sua domanda se sono la stessa cosa, quello è un falso Vuitton in questo caso acquistato, invece quello prodotto in un paese dove il costo del lavoro è minore è un altro tipo di problema, ma è un vero Vuitton, poi la metta come vuole, questo per rispondere alla sua obiezione. Comunque grazie Andrea, voglio andare a Roma da Alfredo, buongiorno. Alfredo, buongiorno. No, spenga questa radio. Perfetto. Dica, buongiorno Alfredo. A tutti. Ci avete i riflessi prontissimi ormai. Io sono contrario a questi provvedimenti, perché il turista, per quanto mi riguarda, è sacrosanto, porta soldi e va trattato con i guanti. Invece, per me, il fallimento è proprio della polizia municipale, che ha detto al controllo, al sequestro delle merci, alle sanzioni per i Vocumprà. E non bisogna penalizzare il turista o il cittadino che magari si contenta di comprare una cosa, anche se non è di marca, ma è un'imitazione, per risparmiare, perché non tutti abbiamo la possibilità di comprare. Oh, per risparmiare. Mi scusi un secondo, sì. La responsabilità, tra l'altro, a mio avviso, va data anche agli stabilimenti, cioè vale a dire al personale o al gestore, che le persone pagano il biglietto. Ma l'accesso alla spiaggia è libero, come sa? È libero. L'accesso alla spiaggia libera è un altro discorso. No, l'accesso alla spiaggia, anche privata, l'accesso alla spiaggia è libero, può entrare chiunque. Sono d'accordo con lei, però ci provano ad entrare, vediamo se lo fanno entrare, questa è un'altra questione. Vabbè. Sindaco Calzavara, allora, il nostro ascoltatore dice un fallimento, il turista va tutelato, il turista magari non c'ha i soldi per spendere 500 euro per una borsa vera, 200-300 euro, e quindi è un fallimento, non tutelare il turista che porta soldi. Credo che il turista scelga le nostre località per venire a passare qualche ora di relax e di riposo in spiaggia e al mare, non viene certo per fare gli affari o per comprarsi l'ultima borsa di Prada o di Vuitton. Poi è Falsa. Chiaro che se ne ha l'opportunità cerca anche di cavalcarla questa opportunità. Quello che cerchiamo di fare noi con questa applicazione della legge è proprio eliminare la domanda. Siamo convinti che se il cliente inizia ad avere una preoccupazione di poter essere sanzionato con 1000 euro di multa, si avvicina con molta più preoccupazione alla vendita e quindi inizieranno a diminuire la presenza di venditori di merce contraffatta. È uno dei modi per tentare, come dico, di arginare. Ma visto in questi giorni, dopo questa multa da 1000 euro, che sono diminuiti o i turisti più attenti, più accorti, si danno appuntamenti magari dietro alle cabine di nascosto? No? Guardi, mi raccontano di Vucumpra che girano con il book delle ultime novità delle borse e poi entrano e le consegnano il giorno dopo. Nelle cabine di nascosto. C'è di tutto all'interno di una realtà come la nostra. Girano con il book, Sansonetti ha capito, il book si sono fatti, così per aggirare. Le abbiamo rovinato troppo la giornata, Sansonetti, no? Di primo mattino, no? Un pochino sì. Cose, ma poi io devo dire adesso, non è che ha del tutto torto l'ascoltatore che ha telefonato, perché c'è anche questa questione, diciamocela, sì, tra noi. Devo chiudere, tra i 7 euro che ha pagato e i 500 magari che costa invece se lo comprava senza col marchio vero, ci sono, ha ragione lei, alcuni euro che dipendono da diversa il commerciante, e poi ce ne sta almeno la metà, la metà di quei 500 euro che sono invece il marchio. Se uno è libero di comprarlo, non c'entra niente, diciamo, con questo problema che stiamo affrontando. Un giorno affronteremo anche il problema dei marchi. Va bene, però c'è la libertà di comprarselo o no, ma io devo chiudere, altrimenti sforo, devo dare la linea Oscar Giannino. Grazie a Sara Spreafico e a Peter Bescapè, di cui è il compleanno. Auguri, Peter. E allora, che devo dire? A domani, niente, a domani.